una donna come te non l'ho mai vista al mondo. E allora dimmi come ti chiami, amica, e dai esci con me. Una donna come te ha un cuore così profondo. E allora cosa aspetti? Seguimi, seguimi e vieni via con me. Sei una donna che sa quel che vuole, sai fingere e ti prendi il gioco di me. E sei una donna che ha conosciuto il dolore, ma non hai capito che stiamo bene io e te. Una donna come te si fida delle sue emozioni e cerca il suo amore laddove non c'è. Sogni un uomo come me che ti sia fedele, che ti capisca e non si prenda gioco di te. Sei una donna che e sa quel che vuole, sai fingere e ti prendi il gioco di me. E sei una donna che ha conosciuto il dolore, ma non hai capito che stiamo bene io e te. Una donna come te ha imparato a piangere, a pregare e a fidarsi del cielo. Una donna come te è innamorata di un sogno, dell'idea dell'amore, e vedrai che arriverà. E sei una donna che sa quel che vuole, sai fingere e ti prendi il gioco di me. E sei una donna che ha conosciuto il dolore, ma non hai capito che stiamo bene io e te. E sei una donna che sa quel che vuole, sai fingere e ti prendi il gioco di me. Sei una donna che ha conosciuto il dolore, ma non hai capito che stiamo bene io e te.